giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno. Denunce su denunce, condanne su condanne, ma quello che conta è non dare la meta. Guarda dentro le sbarre, in un totale rinchiuso, la morte prima del disonore. Giorno per giorno, per giorno, ogni giorno, giorno per giorno, per giorno, ogni giorno, giorno per giorno, per giorno, rivolte, rivolte. C'è bisogno di essere una manca di stronzi. Anche una manca di stronzi, promettere di rosa e poi niente di addosso per i compagni del dolore sul lamento, via di condotta solo combattimento. Per i compagni dentro nessun lamento, linea di condotta solo combattimento, come cantavano appunto i Termidown in Giorno per Giorno. Questa era la prima traccia della doppietta musicale che ci ha proposto il buon Dyna. I Termidown sono un gruppo hardcore punk attivo tra Roma e Viterbo, che suonano dal 1995. Questo brano, appunto Giorno per Giorno, è tratto dal CD La Rivolta Non Si Arresta. E poi dopo abbiamo sentito il buon Chaos con Prison Break. Uscita Prison Break, scusate, traccia uscita nel 2011 sull'album Post Scripta. Come detto anche in anticipazione durante la scaletta del programma, andiamo a fare un salto in Brianza e ci colleghiamo con un compagno di Monza che ci spiegherà un po' cosa sta accadendo a Monza e dintorni e più nello specifico cosa sta accadendo intorno alla FAO Boccaccio 003, la nuova FAO Boccaccio di via Timavo 12. Ciao, ci senti? Ciao a tutti e tutte, sì, vi sento. Ciao, niente. E allora, se vogliamo iniziare a spiegare cosa sta accadendo a Monza, ma se vogliamo dare un preludio un po' agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non sanno bene bene, insomma, cos'è via Timavo, comunque ne abbiamo parlato in maniera approssimativa in questa stagione 2022, insomma, di Radio Tagadà, quindi se vuoi dirci innanzitutto due parole sulla storia del nuovo, tra virgolette, Boccaccio che si trova appunto in via Timavo. Certo, allora niente, un anno e mezzo fa ormai veniva sgomberato, diciamo, la precedente occupazione di via Rosmini 11, diciamo quella storica, il campo da calcio per chi non fosse mai venuto, e niente, si occupava questo posto in via Timavo 12, che tra l'altro è abbastanza vicino alla precedente occupazione, il giorno stesso dello sgombero, durante un corteo molto partecipato. E niente, adesso in quest'anno e mezzo insomma sono successe varie cose, ci sono state tantissime attività dentro lo spazio, collettivi studenteschi che frequentano lo spazio, serate, presentazioni, insomma un po' lo spazio adesso è uno spazio molto grande per chi non fosse mai venuto, è un'area gigantesca di 10.000 metri quadrati che è stata, insomma, era abbandonata da tantissimi anni a Monza e niente, vabbè, come per ogni nuova occupazione, insomma, siamo continuamente anche al lavoro per renderla sempre più, diciamo, attraversabile e bella. E insomma, però un paio di settimane fa sono arrivate quattro notifiche a quattro nostri compagni, delle denunce. E, insomma, che avvisavano di questa udienza, denunce per, diciamo, occupazione e invasione di terreni e per furto continuato, che noi pensiamo, supponiamo, anche perché in realtà non c'è stato detto, nelle carte non è detto, furto pensiamo o di corrente comunque o dell'acqua. E niente, c'era questa udienza di due settimane fa su, insomma, una richiesta di sequestro dell'area di via Timavo presentata da un PM, perché ovviamente l'area è in mano a questi due imprenditori che l'hanno comprata qualche anno fa, che la vorrebbero rivendere, sull'area di via Timavo, che come dicevo prima è un'area molto grande vicino alla stazione, c'è un interesse, diciamo, speculativo, come vediamo in altre parti a Monza, in Brianza, ma in realtà in tutta Italia, dove insomma si vuole costruire probabilmente nuovi palazzoni di case, e niente, quindi comunque su quell'area c'è un interesse speculativo, e niente, questi proprietari hanno fatto queste denunce e niente, c'è stata questa richiesta di sequestro, che era la seconda, perché tra l'altro c'era stata già una mesi fa che il giudice aveva rigettato per, diciamo, questioni burocratiche e per inconsistenza delle prove presentate dal PM. Quindi, diciamo, gli sbirri hanno dovuto fare, diciamo, delle indagini, presentare nuove prove, e tra le nuove prove c'erano anche, diciamo, questi quattro compagni erano visti, cioè dagli sbirri erano, diciamo, accusati di essere gli esecutori dell'occupazione, tra le altre cose. Sì, diciamo che, no, scusa se ti interrompo un attimo. No, vai. Che da quando è stato occupato un po' il nuovo Boccaccio in via Timavo 12, poi svariate volte comunque gli sbirri hanno fatto sentire la loro presenza in un paio di occasioni, soprattutto all'inizio, diciamo, circa un annetto fa, nel momento in cui si volevano organizzare dei concertini, delle iniziative, si presentava in massa la celere a chiudere la strada e quindi a impedire proprio lo svolgimento pratico delle iniziative. Come dici tu, è già la seconda volta che c'è una richiesta di sgombro e di sequestro di quell'area abbandonata, e chissà perché nel momento in cui si liberano degli spazi, poi dopo si attivano anche le forze dell'ordine e gli sbirri, cercando e chiedendo appunto di liberarla dagli occupanti, se così si può dire, per poi darla in pasto, insomma, agli speculatori edilizi. Ma a Monza si sa bene che, diciamo, si vive di speculazione edilizia. C'è stato anche una serie TV, no? Fatta a Monza, che era abbastanza... Ah sì, sì, una serie TV che ha avuto molto successo. Soprattutto tra le guardie, sempre i PM in particolar modo erano... Sì, toccati. Sì, che anche lì, insomma, c'è stata un'operazione, diciamo, repressiva, diciamo, perquise per i presunti autori di questa serie TV che si chiama Colpo di Grazia. Però no, sulla questione, diciamo, della... diciamo della repressione, sì, come dicevi tu, noi abbiamo avuto in Via Timavo, c'è stato un concerto l'anno scorso, eravamo ancora in periodo, forse eravamo appena usciti dal lockdown, dal secondo lockdown, adesso non mi ricordo, e c'era stato impedito di fare un concerto hardcore, se non ricordo male, hardcore punk. E in generale la pressione della questura e, diciamo, della polizia su Via Timavo è fortissima. A Monza è cambiata la giunta, c'era una giunta di destra, adesso abbiamo una giunta di centrosinistra, però se è possibile, diciamo, questa pressione è ancora più aumentata, perché negli ultimi, diciamo, sei mesi c'è una, a ogni iniziativa, diciamo, soprattutto le iniziative, quelle musicali, quindi concerti, DJ set, c'è sempre posti di blocco intorno allo spazio, c'è la Digo sempre che gira, e che tra l'altro queste cose non succedevano neanche quando c'era la giunta di destra, quindi sì, il PD è riuscito a fare pure peggio. E sì, diciamo che non ci mollano mai, però diciamo che è arrivata una buona notizia ieri, perché questa seconda richiesta, insomma, di sequestro è stata rigettata ancora dal giudice, quindi diciamo che possiamo darvi questa news positiva. Questo non vuol dire che il posto non resti ancora a rischio sgombro, perché comunque la questura può decidere quando vuole di buttarci fuori, però diciamo che questa è una, diciamo che è una piccola vittoria, abbiamo vinto, diciamo, una piccola battaglia. E poi noi nei prossimi giorni usciremo con un comunicato più dettagliato, anche perché adesso le motivazioni del rigetto non le sappiamo. Quindi magari aspettiamo anche di leggere le motivazioni e poi usciremo con un testo un po' più completo, e, insomma, che faremo girare, che sarà sui nostri social, sul blog. Sì, poi diciamo una piccola vittoria, diciamo tra virgolette, a livello legale, anche se, come hai detto tu, non vi mollano, e probabilmente dopo questa risposta da parte del giudice magari vi molleranno ancora di meno, però le vittorie si ottengono soprattutto dal punto di vista dell'auto-organizzazione e appunto della lotta. E comunque nel momento in cui è stata richiesta, insomma, il sequestro e lo sgombero nuovamente, ci sono state comunque delle iniziative, c'è stato un po', insomma, di fermento in città, insomma c'è stata un'assemblea, se ci volevi raccontare un attimo questo passaggio qui, se hai voglia. Sì, c'è stata un'assemblea pubblica martedì, questo di questa settimana, insomma dentro il Boccaccio, insomma noi abbiamo fatto un po' il punto della situazione sulla questione del sequestro, sulla questione anche, diciamo, repressiva che ha colpito quattro di noi, e in generale su un po' tutto quello che sta succedendo in città. E niente, l'assemblea è andata abbastanza bene, c'è stata una buona partecipazione anche, diciamo, giovanile, e in realtà erano uscite un po' di proposte già durante quell'assemblea su come rispondere al possibile esito negativo sul nostro sequestro. E in realtà questa cosa del rifiuto, diciamo, del giudice di sequestrare l'area ci ha un po' colto piacevolmente alla sprovvista, perché noi davamo per scontato che, diciamo, avrebbe vinto, diciamo, la proprietà. Noi avevamo già in mente di fare delle cose che ovviamente adesso realmente cambieranno un po', visto l'esito, diciamo, dei tribunali, però in realtà oggi c'è comunque un'iniziativa in Boccaccio alle 5, quindi però pensiamo che qualcosa, insomma, succederà magari nelle prossime settimane, dopo le feste magari, perché comunque la situazione in città è veramente, diciamo, sia a livello, diciamo, di controllo sociale, è veramente asfissiante. E poi c'è tutta una questione, come dicevo prima, sulla speculazione edilizia, che è fortissima da noi a Monza. Quindi sicuramente un mese fa circa, no, all'inizio novembre, abbiamo fatto un corteo per Monza molto grande, che c'erano 600 persone, insomma, che toccava vari temi, insomma, caro vita, scuola, eccetera. Quindi, cioè, pensiamo che in questi mesi, queste settimane, continueremo un po' su questo percorso qua, diciamo, di lotta e di seguire varie cose. E niente, perché anche comunque la situazione in città è molto buona, cioè, cioè, diciamo, c'è un po' di fermento, di energie nuove, giovani che si stanno, diciamo, tirando in mezzo nelle lotte. Quindi sicuramente le prossime settimane uscirà qualcosa. Bene, tutte le notizie che ci dai sono sicuramente positive. Grazie per l'anteprima, insomma, del buon responso, se così può essere giudicato un responso buono da parte di un giudice, però comunque non ha accettato la richiesta del PM di sequestrare e sgomberare lo spazio. Hai parlato di speculazione edilizia nella Brianza, ritorneremo a parlare ancora una volta anche di speculazione edilizia a Milano, già lo facciamo da un po' di puntate, e andremo poi dopo nella zona tra Piazzale Loreto e poi sulle direttive di Viale Monza e Via Padova con un compagno. Bene, noi ti auguriamo buone feste di lotta, ma soprattutto un buon 2023, un buon inizio sempre di lotta a Monza, e dalle prerogative che ci dai tu sicuramente sarà interessante, insomma, seguire gli sviluppi in Brianza. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente, sperando sempre di avere buone news, insomma, quando ci facciamo delle chiacchierate con te. Grazie per lo spazio. Ciao. Perfetto, grazie a te. Ciao. E ora un po' di musica con Dyna, White Stripe. We'll be right back. Come primo brano abbiamo ascoltato i White Stripe, che sono stati un duo rock statunitense di Detroit, formato da Jack White e Meg White. Il loro periodo di attività va dalla fine degli anni 90 fino al 2011, anno in cui danno l'annuncio del definitivo scioglimento. Il brano, The Hardest Button to Button, è tratto dal loro disco più significativo, Elephant, pubblicato per la V2 Records e per la XL Recording nel 2003. È ritenuto dalla nota rivista Rolling Stones uno dei migliori album di sempre, tanto da assegnargli la 390esima posizione. Poi abbiamo ascoltato i Death in Vegas con Hands Around My Throat, doppietta musicale, appunto questo gruppo musicale britannico, formatosi a Londra nel 1994, include nel loro stile un po' di rock psichedelico, musica elettronica, krautrock, dub e industrial. Il brano invece era Hands Around My Throat, pubblicato sulla sul disco Scorpion Rising nel 2002. E ora partiamo con la solita rubrica di sport popolare. Tutto lo sport popolare milanese minuto per minuto. Allora, partiamo dal rugby, questo è l'ultimo aggiornamento del 2022, quindi proviamo a fare un po' un resoconto. La squadra FIR della Stella Rossa Rugby purtroppo non giocherà il concentramento di domani con CUS Genova e CUS Piemonte Orientale, che si doveva tenere dalle 12.30 a San Mauro Torinese, causa impraticabilità dei campi. Invece la WISP domani va in trasferta in Lunigiana con un bus da 50, in bocca al lupo alle Stelle Rosse. Partiamo dal calcio, partiamo dalla FIGC e dal basso, terza categoria, più 4 sulla San Giorgio e girone d'andata chiuso al primo posto per i giallo-verdi della Dal Pozzo. La partita invece di Coppa Italia, che doveva disputarsi giovedì per la frazione calcistica, è stata rinviata sempre per impraticabilità di campo. Ricordiamo che giovedì a Milano e nei dintorni c'è stato un violento acquazzone durato tutto il giorno e ha reso impraticabili vari campi, ma probabilmente anche non solo nella zona del Milanese, visto che hanno rinviato anche il concentramento a San Mauro per le ragazze del rugby. La Sant'Ambrosio invece, che milita nel girone Q della seconda categoria, è fanalino di coda a 6 punti, a pari merito col Bollate. Situazione di classifica totalmente differente per il Partizan Bonola, che chiude il girone d'andata primo con 38 punti, a più 2 dalla diretta inseguitrice, che è la Real Trezzano. Il ritorno ci dirà, il girone di ritorno ci dirà come andrà a finire. Per ora grandi ragazzi di Bonola. Passiamo al calcio a 7, rimaniamo sulle maschili, quindi calcio a 7 della CSI categoria C, posizione di bassa classifica per il Dal Pozzo. Vedremo nell'anno nuovo cosa saranno capaci di mettere in campo. Invece l'Ardita Giambellino chiude il 2022 con una posizione di metà classifica e comunque da riscontrare un andazzo positivo nelle ultime uscite. Sempre calcio a 7, ma ora andiamo alla categoria B femminile e andiamo ad approfondire un po' il girone A, dove ci sono sia Ardita che Partizan che Santa. Come detto più volte, vanno un po' meglio delle altre le Rosa Flue, che sono quarte in classifica a meno 5 dalla capolista Atletico Barona. Decisamente peggio purtroppo la Sant'Ambrose, che è penultima a 4 punti, e l'Ardita Giambellino, ultima ad un punto, che avrà l'onore e l'onere però di giocare l'ultima partita del calcio popolare menichino del 2022. Domenica scenderanno in campo, infatti, domani alle 18.30 all'Oratorio San Silvestro di via Maffei 29 contro il Vittoria Junior dai Nero Arancio. Poi ricordiamo, e lo ricorderemo anche dopo tra le iniziative, che ci sarà la tombolata dell'Ardita Giambellino in Baronata il 22 dicembre. Andiamo avanti con il calcio, sempre CSI maschile, l'Open a 11. Partiamo dalla categoria B, girone B. I Regaz della Sant'Ambrose chiudono quest'anno solare in una posizione media-bassa, 10 punti in 10 gare, sono lontanissimi dalla vetta, meno 16, ma anche lontani dall'ultimo posto, sono a più 8 infatti dall'ultima. Nella categoria A, invece, sempre girone B, i dadaisti del Partizan sono quarti a meno 9 dalla vetta, netta crescita riscontrata nelle ultime partite. E chissà, insomma, cosa ci riserverà il 2023 per quanto concerne lo sport popolare milanese. Questo lo scopriremo nelle prossime puntate. Ricordiamo che con le dirette ripartiremo il 21 gennaio, ma anche sotto le feste ci sarà sempre Radio Tagadà on air dalle 14.30 alle 16, con dei podcast tematici che vi elencheremo volta per volta sui nostri social. Ricordiamo che potete scriverci al 351 5579 698 via Telegram, potete mandarci le mail a radiotagadà@autistici.org e potete seguirci sia su Facebook che su Instagram cercando Radio Tagadà. Bene, ora un po' di musichetta e lasciamo spazio a Dynamite, che ci propone All Alone dei Gorillaz. All alone. La Vita Castle, Duke to run my. Snatch a piece of my pondering. This didn't fly like yondering. Skin on my tooth like, skin on my boot like, flying my suit like. Where's the waitress? Can't take this, really can't fish this. These airs and all these graces. It's my mistake, I made it. Shade up to the moon, now wake it. Bounce, wiggle, shaking all them veins out. Chemical cutthroats, bound to blow the brain out. Cut to the pain, this ain't no game. I show no shame, I birth this pain. I twist the cane, I twist the game. I push the plane, it's plain as day. Known to what these sayers say, known to what these doers do. It's you and who and you know where. We's about to take it there, we's about to make it clear. We happy on, we lonesome. The lone drum, the beat heart, the start to finish. 10 spoons of spinach, the soul and the spillage. The cup that runneth over, we turn up the ogre. Gorillaz All Alone. I Gorillaz sono un gruppo musicale britannico fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn The Blur e dal fumettista Jamie Hewlett. Scusate, non sono buono a pronunciare cognomi inglesi. Questo era il loro brano All Alone, tratto dal capolavoro Demon Days del 2015. E ora andiamo avanti e ritorna una rubrica a cui sono affezionati in un po', soprattutto al sud, perché Radio Tagadà è vero che va in FM a Milano e a Brescia, ma ci ascoltano a quanto pare anche al Salento, vero Daina? E quindi parliamo di un po' di notizie dal web, e a sto giro parliamo di ladri sfortunati. A Firenze uno sbirro vigilante sa purtroppo sventato il tentativo di furto di una bicicletta nel parcheggio della Lidl di via Cortona in zona San Chirico a Legnaia. Il presunto ladro era prima entrato nel supermercato a fare la spesa regolarmente, poi forse per trovare un mezzo più agevole per il trasporto o semplicemente forse perché era svogliato e sfaticato, ha messo gli occhi addosso giustamente al parcheggio delle biciclette, quindi ha scassinato la bici di una signora intenta a fare la spesa, ma purtroppo è stato sgamato. E parliamo di Brescia, proprio, da una bicicletta a un'auto, qualcuno, praticamente in un parcheggio di Brescia, punta un'auto parcheggiata, nello specifico una BMW Serie 3. Non poteva sapere però che quella vettura in sosta in una strada della zona sud della città fosse in realtà l'auto civetta, l'auto in borghese di una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata in un servizio di osservazione e pedinamento. Quindi sotto gli occhi increduli dei finanzieri, nascosti per tenere d'occhio il loro obiettivo, ha prima spiato dentro i finestrini e poi con un mattone ha sfondato un vetro per farsi strada nell'abitacolo. A quel punto i militari delle Fiamme Gialle sono intervenuti, abbandonando il loro programma investigativo e arrestando lo sfortunato ladro in flagranza per tentato furto e danneggiamento di una proprietà militare. E chiudiamo con altri ladri che sbagliano casa, però siccome sono ladri, gentiluomini o gentildonne, chiedono scusa ai proprietari. e ripuliscono tutto dopo aver messo a soqquadro. È successo sempre in Toscana, a Firenze e più precisamente a Bagnarripoli. I ladri, vedendo che nella cantina dove si erano recati erano presenti solo vecchie scatole vuote, rimaste lì dopo un trasloco, si sono resi conto di essere entrati nella casa sbagliata. Convinti che il proprietario di casa fosse un avvocato, evidentemente loro ben noto, si sono resi conto dell'errore, sono risaliti e hanno chiesto scusa ai proprietari di casa, affermando di aver capito male il luogo dove dovevano recarsi, e hanno anche restituito un orologio e qualche gioiello rubato in giro per la casa. Hanno poi pulito lo scantinato con la candeggina e per cancellare le loro tracce si sono allontanati. Direi che è classe, ed ora Grace Jones con Love is the Drug. Vai Dyna. Grace Jones è una cantante, attrice e modella giamaicana. Comincia la sua strepitosa carriera nel 1973 ed è tutt'oggi in attività pubblica, più di 20 dischi, fondendo sonorità che vanno dall'elettronica al funk soul fino ad arrivare alla new wave e al synth pop. Il brano Love is the Drug è tratto dal disco Warm Letterate del 1980, e abbiamo parlato anche prima con un compagno della Brianza riguardo la situazione di via Timavo, dell'eventuale sgombero, spazio che appunto appena è stato liberato è stato oggetto di interessi speculativi e di speculazione edilizia torniamo a parlare, come spesso stiamo facendo a Radio Tagadà, e andiamo a continuare, diciamo, i nostri appuntamenti con la rubrica La città che cambia. Cerchiamo di capire cosa accade a Milano e cosa succede nella città che noi viviamo ed attraversiamo. Questa volta andremo un po' a nord, cercheremo di capire cosa accade nella zona adiacente a Piazzale Loreto, e poi ci sposteremo verso nord ancora di più, seguendo le direttrici di Viale Monza e Via Padova. Lo faremo con un compagno che appunto è in linea. Ciao, ci senti? Sì, vi sento, ciao. Ciao, grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Inizio, sì, ciao. Va bene, niente, se vogliamo iniziare a parlare di cosa sta capitando a Piazzale Loreto e di cos'è Nolo. Sì, ma allora Nolo ormai è qualche anno che è stato praticamente promosso a Milano come un quartiere per dare un'identità territoriale a una zona di Milano. Lo scopo di questa identità territoriale non è quella che uno penserebbe nella vita normale, che è un'identità perché gli abitanti si conoscano, perché crescano insieme, ma bensì un modo per rendere e mettere a rendita un pezzo di città. Il primo pezzo, diciamo, dell'operazione Nolo, coniato in forma totalmente esterna agli abitanti della zona, diciamo che ha funzionato perché ha messo a rendita sostanzialmente la zona vicino alla stazione centrale, quindi la parte dietro dove è stata valorizzata anche dagli Expo, è stata valorizzata dal Salone del Mobile di Milano, eccetera, eccetera. Io direi che la definizione precisa è quella di messa a rendita del territorio. Da questa operazione Nolo, parzialmente ben riuscita, che cosa esce? Esce perché è messa a rendita. C'è una crescita dei valori immobiliari e allo stesso tempo c'è una crescita dei centri di consumo che sono un altro elemento produttivo. Dulcis in fundo, inizia Piazzale Loreto, che viene venduta sostanzialmente per 99 anni a un gruppo privato che ne farà una specie di supermercato a cielo aperto. Questa per quanto riguarda Nolo. Piazzale Loreto è il punto di partenza di, come dicevi tu prima, di quelle due direttrici che sono Viale Monza, Via Padova e dall'altra fino a Via Palmanova, che praticamente prendono una fetta della città. Seconda fase, diciamo, questa fase di Nolo, primo pezzo, prima parte, è quasi conclusa per quello che riguarda il comune. Seconda fase inizia con le zone un po' più distanti. Crescenzago, quartiere Adriano, Palmanova e ex Rizzoli, dove ci sono una serie di progetti in corso e che sono sostanzialmente uno di Cavo Curma, di 5.000 metri quadri dove c'era la ex Rizzoli, dove, nota il termine molto carino, nascerà una zona uffici eccetera che si chiama feeling at work, quindi sentimento del lavoro. Dall'altro il quartiere Adriano, dove dovrebbe arrivare, sorgere completamente una serie di, oltre ai centri commerciali che sono già arrivate, di abitazioni e di immobili. Se voi andate a vedere i prezzi delle case negli ultimi 7-8 anni praticamente sono raddoppiati, mentre una via Padova trovavi case da 1.000-1.200 euro al metro quadro a prezzi molto bassi, oggi minimo è 3.000 euro al metro quadro, e dove andiamo poi a quartiere Adriano sono circa 5.000 metri quadri. Forse vale la pena, non so, se mi fermo un attimo che vuoi intervenire, oppure se vado avanti e faccio un ragionamento intorno a questo cambiamento territoriale. No, dimmi. Secondo me puoi andare avanti perché è abbastanza liscia e interessante. Poi, tra l'altro, il fatto del costo, 5.000 euro a metro quadro in zona Adriano, che non è una zona ben servita dai mezzi, voglio dire, non ci arriva neanche la metro, è vero, arriva lì a Crescenzago, ma poi un pelettino, si deve anche camminare a piedi, abbastanza bravo, eloquente. Hai centrato il punto, perché il nostro amico Maran, dell'urbanistica a Milano l'anno scorso, insomma, una delle affermazioni che fa, ed è un'affermazione vera, dice: ma via Adriano, noi abbiamo avuto, attenzione, abbiamo avuto era il governo Renzi, insieme all'altro, come cavolo si chiama, a Gentiloni, Renzi Gentiloni, 18 milioni di euro per mettere a posto quest'area, ma quest'area non è decollata bene. Nota, facciamo una parentesi, l'area quartiere Adriano è dietro nello spazio vuoto, diciamo, tra via Padova e via Le Monza, ed era l'ex area della Marelli di Milano, Magneti Marelli. La Magneti Marelli chiude, e qui quindi possiamo definire la fine della città fordista in quella zona lì, e quindi della città fabbrica, chiude tra l'80 e il 90, ok? Allora si tratta di rilanciare, cioè come rimettere in piedi, rimettere a rendita queste aree. Però nonostante questi soldi dati allora, cioè gli autobus che arrivano lì sono la 56, l'86 e la 53. Quindi, come dicevi tu prima, poco servita. Ma oggi si tende a potenziare questo. Attenzione, nel passaggio tra la città fabbrica e oggi c'è a Milano un piano regolatore ex PRG che diventa PGT e cambia. Cambia e ti dice che tu puoi alzare le volumetrie nel momento stesso in cui sei ben servito da mezzi pubblici. Quindi una delle operazioni pubbliche che viene fatta e che fa il Comune di Milano è quella adesso di potenziare questa zona qua. Questa zona ha un punto debole, che è proprio dove c'è il comune di Crescenzago di Piazza Costantino. È un imbuto a cui devi passare per passare in questa zona Adriano. È evidente che anche la 56 o i mezzi pubblici lì si intasano e rischiano ritardi e robe di questo tipo. Per cui il tentativo sarà di arrivarci dall'altra parte, da Viale Monza, e creare delle altre viabilità che saltino la zona di Piazzale Costantino. La domanda che viene, cosa sul discorso di speculazione edilizia, è forse proprio nel termine speculazione. Io qui vorrei promuovere, come dire, un nuovo termine, che è quello dell'estrattivismo. Cioè, la speculazione è sempre esistita. Cioè, si prende una casa a basso prezzo, si cerca un posto dove possa salire il prezzo e sale. Ok. E questo è il meccanismo su cui si è basato la gentrification, cioè prendiamo Nolo, lo facciamo crescere diventando una zona figa dove ci sono gli alternativi, dove sotto le gallerie della stazione centrale ci facciamo le robe dei mobili, ma questo l'hanno fatto anche a Lambrate, insomma, e così cresce il prezzo. Tu piccolo proprietario che c'hai l'appartamento della nonna che abitava lì e che è morta, sei contento perché dici: ma cavoli, questo appartamento è salito di prezzo. E questo è il meccanismo della gentrification in generale, cioè trova un consenso, tra virgolette, pseudo popolare nel prezzo che sale, salvo che poi il prezzo che sale dell'immobile corrisponde al prezzo che sale della vita, e tu stesso, se non hai una rendita in grado di gestire questo, sarai espulso. Ma qui andiamo oltre. Il concetto è, proviamo a prenderlo in una maniera più distante, magari materialista, come funzionava l'accumulazione del capitale nella città fabbrica? Funzionava con le fabbriche, la Magneti Marelli in questo caso, che producendo e vendendo i pezzi accumulava plusvalore. Questo plusvalore e questi grandi utili venivano da un lato riversati in tasse sulla città e nello stesso tempo mantenevano dei quartieri poveri che erano quelli popolari. Nel momento stesso in cui questa città fabbrica non c'è più e questa fabbrica non c'è più, da un lato il capitale, perché è il capitale che disegna la città, gli architetti gli vanno dietro, dice: ma cosa ce ne facciamo? Cosa ce ne facciamo da un lato delle case popolari, perché non mi servono più operai? Dall'altro, cosa ce ne facciamo di queste aree dove la Magneti Marelli ha portato via tutto il plusvalore che poteva esserci e ha lasciato solo rifiuti? cioè perché sono tutte zone che, come quella poi di Santa Giulia, sono tutte zone da bonificare, naturalmente a spese pubbliche, non a spese della Marelli che ha lasciato lì quello che ha lasciato. Quindi la domanda dell'amministrazione e la richiesta del capitale allo stesso tempo è: come mettiamo a rendita questo territorio di Milano e queste grandi fette? Qui è l'estrattivismo, cioè il concetto che il territorio stesso diventa produttore di plusvalore. Come? Io, come amministrazione pubblica, creando delle condizioni perché tu holding finanziaria, tu multinazionale, tu fondo di investimento arabo, ma ormai anche fondi di investimento locali, possa operare e guadagnare soldi. Allora, la casa, che è sempre stata concepita come un accessorio, salvo l'aspetto speculativo, alla produzione, diventa essa stessa elemento di produzione, cioè esattamente come se fosse la catena di montaggio, la fabbrica. Il salire di questi prezzi qui è quello che permette, noi la chiamiamo banalmente l'immobiliare, ma in realtà la holding finanziaria, la multinazionale, di far crescere i prezzi, di far crescere la città. E allora cosa succede? Che questa città può funzionare se è un punto di scambio col capitale a livello globale, cioè qui vengono fatte transazioni, affluisce capitale da Londra, da Parigi, da New York, eccetera, eccetera. Ed è poi la funzione dei grandi dirigenti che stanno a Bosco Verticale, per capirci. Ma poi c'è tutta un'altra serie di persone che lavorano alla Microsoft, che lavorano intorno a queste robe qua, magari anche da casa, e quindi ecco che lanciamo questa cosa del casa che sale come prezzo, quindi estrattivismo dall'abitare delle persone, e oltre all'estrattivismo dell'abitare insieme il consumo. Perché? Perché ormai la produzione si è spostata dall'elemento produttivo all'elemento di consumo, e quindi in quanto tale, ecco il supermercato a cielo aperto di Piazzale Loreto, ecco i centri commerciali, l'unica grande soluzione in tutte le robe che non sanno cosa fare della vecchia fabbrica abbandonata, cos'è? Il centro commerciale e l'abitazione e l'ufficio. Ecco, questa è la forma di estrattivismo del capitale dal territorio. La paragonerei molto simile a quello che avviene noi quando parliamo di land grabbing in Africa o su, no? Vanno a portare via le materie prime per poi farle lavorare dalla fabbrica cinese piuttosto che da quell'altra. Ecco, qui non abbiamo la fabbrica cinese, abbiamo le cose, ma abbiamo il territorio che è messo a reddito in forma di estrattivismo dall'abitare, dall'abitazione. E allora proviamo a ripensare, ma l'abitare, la casa, è un diritto di tutti? È una cosa che tutti dovrebbero avere, non è una roba che chi si può permettere. E infatti, ecco lo spostamento poi dei ceti più poveri, quelli che non hanno mezzi per poter resistere all'interno di questo meccanismo di gentrification che si è creato, e vanno a Spido Dada, Pantigliate, o come è successo in Via Bolla durante lo sgombro della palazzina, insomma, sia gli assegnatari che le famiglie occupanti, perché ricordiamo, gli occupanti se non hanno figli possono stare in mezzo di strada, ma alle famiglie occupanti il contentino glielo diamo, li hanno spostati a Corbetta in delle case popolari, e Corbetta è una frazione di Magenta, quindi assolutamente anche fuori dal primo interland milanese. Questa è la situazione, ecco, che ci hai spiegato abbastanza bene tu, riguardo insomma l'accrescimento di linee per come dire, rifornire meglio a livello di mezzi e collegamenti quartiere Adriano. Non hai menzionato la metro, delle nuove linee metro ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato l'altra volta con un compagno, insomma, del collettivo di Off Topic, riguardo la zona sud di Milano, e che ci spiegava infatti che, come anche tu hai detto, il primo passo anche proprio per ricostruire proprio da zero una nuova porzione di città, ricostruirla nel senso, nella loro ottica capitalistica, insomma, di sfruttamento sia del territorio ma anche dell'abitare, con l'estrattivismo lo definisci tu, insomma, della popolazione che vi risiede, e appunto rifornirla di mezzi per renderla fruibile, diciamo in zona sud. Ecco, sta avvenendo questo passaggio con l'eventuale costruzione della linea M6. Esatto, tieni conto poi dall'altro lato che esistono anche tutta una serie di chiamiamole onlus, forme sociali oppure forme artistiche. Ad esempio lì in zona Adriano c'è questa roba che si chiama la città intorno, mossa da Fondazione Cariplo, ecco, per chi vive l'Adriano, e quindi danno poi tutta una patina intorno a questa roba qua di cosa sociale, ma in realtà sono tutti degli aiuti e dei sistemi a questo sistema produttivo avallato dall'amministrazione e portato avanti dai privati. Allora la domanda è molto semplice: qual è, dove finiamo sotto questo profilo? Perché se da un lato poi ti dicono, come lì per la Rizzoli, che sarà tutto iperecologico, che sarà pochissima la CO2, che ci sarà il verde, robe di questo tipo, ma dove la cementificazione della città e comunque l'avanzamento della città in questo senso, dove ci porterà e poi dove sarà la bolla speculativa? Perché questo processo è evidente che non può andare avanti in eterno, e soprattutto per le persone povere, normali, il gioco dell'abitare diventa una deterritorializzazione del luogo in cui abiti per un lavoro che è molto spesso despazializzato e astratto, e nel quale, voglio dire, la vita tua viene sostanzialmente venduta al sistema produttivo e la relazione sociale viene distrutta. La parcellizzazione dei singoli è un elemento chiarissimo, i disagi sociali che subiscono le persone è un altro elemento che in questo momento sta venendo fuori da tutte le parti. Quindi è un sistema che va a sbattere proprio contro qualsiasi forma ecologica di riterritorializzazione e qualsiasi forma di umana, ecco, di rapporti e di vita umana e dell'abitare. Ecco. Bene, perfetto. Vabbè, noi ti ringraziamo. Sono andato forse un po' oltre, però. No, non preoccuparti, perché era veramente, veramente interessante la questione. Quindi ho studiato questo spazio perché diventano spazi inclusivi, individualistici, risucchianti, cioè la crescita economica in questo senso e questo discorso di oggettivazione per cui la scienza risolverà comunque i vostri problemi, e non è assolutamente vero, e qui la crisi climatica lo è e Milano lo è ancora di più, insomma. Vabbè. No, Milano è la rappresentazione massima di tutte le cose che hai detto, insomma, qui in Italia. L'ultima frase. Vabbè, questo è quanto. Poi ci aggiorneremo. Non sto a intervenire sulla singola casa costruita, sulla singola battaglia di zona. Dobbiamo fare perché su quello dovremmo fare una puntata specifica, esatto, perché purtroppo esatto, il tempo a disposizione è sempre illimitato, ma noi ti ringraziamo perché comunque anche questa tua analisi della zona nord a Milano si va a inserire in tutto quel percorso che, come ti dicevo anche quando ti contattavo per l'intervista, stiamo provando a fare su Milano. Abbiamo parlato di Via Bolla, un po' di Via Gola, abbiamo accennato qualcosa su San Siro, ci arriveremo, abbiamo parlato della zona sud di Milano, di Giambellino, che comunque appunto ha subito prima gli sgomberi e poi diciamo il comitato abitanti è stato asfaltato sia a livello pratico, fisico, nel senso che non ci sono più le case, non c'è più il comitato, ma anche a livello processuale con la condanna in primo grado dei compagni. Dai, noi ti ringraziamo e ciao, ci sentiamo presto. Grazie ciao. Mille. Ebbene, noi dopo questa veramente interessantissima intervista andiamo un po' avanti con un po' di musica e diamo un po' di spazio al nostro buon Daina che scalpita. We'll be right back. sotto il sole magri, bugiardi senza mira, vivono ad un cenno e poi cadono, slittano senza vita, dentro ingorghi gialli senza uscita, ridono senza lingua, poi piangono in un modo normale. Riding in a spaceship, 1984, picking up a signal never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Ground control's excited, I'm here. Transmission chills me to the bone. Outside in the darkness, voices on the speakers whispered in my ear. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, not just be your friend. I wanna be your lover, I wanna be your lover, I wanna be your lover, not just be your friend. E 55, siamo agli sgoccioli di questa ultima puntata in diretta di Radio Tagada per il 2022. Questa era Fausto con Attori Malinconici, la prima canzone che abbiamo sentito sulla doppietta musicale del nostro buon DJ Fausto Rossi, noto anche con lo pseudonimo di Fausto. È un cantautore italiano, il suo esordio nel panorama musicale del 1978 con l'album Suicidio. Il primo disco si impone con lo stile... Scusate, il primo disco si impone per il suo stile originale e innovativo, ispirato al rock di hip hop e Lou Reed, come anche dalla musica più elaborata di Sparks e David Bowie. Il brano, invece, Attori Malinconici, è tratto dal secondo disco Poco Zucchero, pubblicato nel maggio 79 per la casa discografica Ascolto. La canzone, invece, che abbiamo terminato di ascoltare pochi secondi fa era La Bionda, era dei La Bionda e Wanna Be Your Lover. Pochi anni dopo... rispetto al 79, appunto, esce nel 1980 Wanna Be Your Lover, del duo musicale formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, nati a Ramacca in Sicilia. Si sono trasferiti a Milano nel 1954 e sono considerati i pionieri di quello che il panorama internazionale definisce come Italo Disco. E come al solito, a fine di ogni puntata, proviamo a elencarvi tutte le iniziative della settimana a Milano. E iniziamo con le iniziative, appunto, che ci saranno oggi. Partiamo con il Benefit Punk, che si terrà al GTA a Gratosoio, in via Lelio Basso 7. E il Benefit sarà per il comitato abitanti Giambellino e Lorenteggio. Ricordiamo ancora una volta che i compagni e le compagne sono stati condannati in primo grado per l'operazione Robin Hood, a condanne che vanno dai 5 anni e 5 mesi a un anno e 7. Suoneranno i Linguini, Traiettoria Hardcore, i Muffa, e poi ci sarà il DJ set con Sushi e Solid One. Offerta minima 3 euro. L'iniziativa si terrà dalle ore 21 in poi. Quest'oggi invece parliamo di un'iniziativa passata, ma è sempre interessante ricordare i percorsi continuativi che ci sono a Milano. C'è stata un'altra iniziativa di Donna Vita Libertà Together for Iran, e dalle 10.30 un po' di persone solidali, insomma, con la situazione repressiva e soprattutto la situazione di lotta che prova a ribaltare il regime islamico in Iran, si sono trovate alle 10.30 in Piazza della Scala a Milano. Da mezzogiorno invece in via Porpora si sta tenendo la seconda festa di quartiere di dicembre. Dalle ore 12 c'è stata prima una mostra e poi un po' di musica, percussione e danza con la Murga Libre. Dall'una e mezza il pranzo sociale e il banchetto organizzato dal Gas Lola, e dalle 3:30, quindi è ora in pieno svolgimento, il Ton Ton Tombola, la tombolata performativa con le Ninas Drag Queens. Stasera dalle 20:30 in panetteria occupata ci sarà la cena con Olga, la tipica cena di autofinanziamento del collettivo È ora di liberarsi da ogni galera. Domani dalle 14:30 in piazza Duca d'Aosta a Milano, quindi lo spiazzo subito fuori la stazione centrale di Milano, ci sarà Sconfiniamo, il corteo contro le politiche razziste e repressive in atto in Italia. Sempre domani in Calusca dalle ore 17:30 ci sarà Bella iniziativa, ci sarà prima la presentazione del libro 100 fuochi, la lotta armata nel 77, il libro è di Emilio Mentasti, edito da Derive a Prodi nel 2022. E poi a seguire il gruppo Malmström presenta una serata in omaggio al lavoro cinematografico di Jean-Marie Straub e Daniel Ouillet. Il docufilm si chiama Mai Riconciliati. Quindi dalle ore 20:30 ci sarà la presentazione del gruppo Malmström e poi a seguire la proiezione del film Fortini Cani di Daniel Ouillet. Domani sera sempre ci sarà il secondo appuntamento per le cene mensili organizzate dai compagni e dalle compagne di Galipetto Occupato. Ci sarà questa cena che si terrà al Cuore in Gola come l'altra volta, 10 euro più vino birra, che andranno benefit per le spese legali degli inguaiati e delle inguaiate a Milano. Serve prenotarsi, ricordiamo la mail per prenotarsi alla cena, è cene della domenica @libero.it. Mercoledì presso Casa Loca ci sarà un'iniziativa del solstizio d'inverno. Dalle ore 18:30 ci sarà l'aperitivo del mercoledì e poi dalle 19 dallo sciamano a Raver, un talk con Tobia D'Onofrio e Gianni De Martino. Dalle 21 era Uetico, performance live di K-Bob Orchestra. Ricordiamo che Casa Loca si trova in Viale Sarca 183 a Milano. Sempre mercoledì come al solito ci sarà il consueto incontro sull'educazione libertaria in Casa Crescenzago. E poi ricordiamo che ci saranno questo fine settimana, ci saranno e sono in corso attualmente delle street parade, delle iniziative itineranti di musica a Bologna, Napoli, Torino e Roma, contro il decreto anti-rave che è stato appunto edito dal neoreggente governo destrorso e fascista della Meloni. Citiamo anche un'altra iniziativa che ce l'hanno scritto ora: giovedì 22 dicembre dalle ore 20 in poi ci sarà la cena tutti insieme organizzata dall'Ardita Giambellino, la squadra di sport popolare che seguiamo assiduamente. Quindi ci saranno pizza e panzerotti, musica e birra, e dalle 10:30 la tombolata. L'iniziativa si terrà presso la Baronata Occupata in Viale Faenza 12/7. Bene, noi con l'iniziativa abbiamo finito, anche con le dirette per il 2022. Ricordiamo che sia sabato prossimo, quindi sabato 24 e sabato 31, saremo comunque in onda con Radio Tagadà in versione speciale e manderemo degli interventi che sono stati fatti durante un'iniziativa al COX 18 riguardo il regime 41 bis. In questa iniziativa erano presenti anche degli avvocati di compagni, tra cui Caterina Calia, l'avvocato Novaro, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. E poi invece nei primi due appuntamenti di anno nuovo del 7 gennaio e del 14 gennaio ci sentiremo un po' di musica e un po' di live set del nostro Buon Dynamite. Anche quest'oggi quindi siamo arrivati al termine. Ricordiamo che potete contattarci al 351-5579-698 via Telegram, scriverci a radio@autistici.org. Siamo anche su Facebook ed Instagram, e se volete riascoltare i podcast potete andare sul nostro blog cronachediregime.noblogs.org. cronache è scritto con la K. Come sempre ci sentiamo in radio e ci vediamo in strada. Prima di lasciarvi presentiamo l'ultima traccia di oggi, che è dei Neon e si chiama Dark Age. Niente, lasciamo spazio a Dynamite, Pasca la voce, buon fine 2022 e un buon fine anno di lotta. A presto. The other things that